Sai, baby, sei in presenza di un mostro. Dark gang, 3-7, fottuto, mostro a tre teste. Dici che cosa ti serve? Bianca, giallo, la verde. Serviamo stronzi come fossi un Corriere Express. Non posso aspettare, prendo quello che mi serve. Passa montagna in casa quando stiamo in mezzo alla neve. Siamo nel campo come Tiger Woods. Soldi nei G-Star, non metto i Jackson. Un fumo naturale, dammi Logicus. Mi fa stare alto come i Jetsons. Avete merce masochista perché è piena di tagli. Chiamo al mio amico, soldi in mano, ne dai uno e non parli. Vorresti fottere la gang, attento a non sbagliare un po'. Siamo caldi, facciamo i botti come a Capodanno. Pezzi nei miei jeans, sto fumando Gush, la mia collana bling bling bling. Medusa in petto di PC, Dark Gang, triplo set. Sto fumando quella e non sento niente. Nah, pezzi nei miei jeans, sto fumando Gush, la mia collana bling bling bling. Medusa in petto di PC, Dark Gang, triplo set. Sto fumando quella e non sento niente. Nah, baby, guarda la mia collana, brilla come una stella. Ho pezzi dentro al mio barbier in pelle, fumo e non penso. 7-7-7-7 gang, collana che pesa, 24k al collo, la tua donna mi cerca. Sto fumando tutta l'Olanda, chiamami Wesley Snyder, né G-Star, solo Gush. Fumo solo mango albicocca, parli di soldi eppure non ti ascolto. Faccio 3k e li raddoppio, WF è la mia cinta, vendi. Passa montagna al volto, fumo questi rapper come stessi fumando Gush. Pesce crudo assunta madre, spenderne di più. DPG 3-7 Dark Side, Tony F, baby. La tua donna si bagna quando mio fratello esce. Pezzi nei miei